gente, perché poi adesso lui inizierà che non dormirà il pomeriggio, eh. Lui inizierà anche a non dormire il pomeriggio. Sì, io ti sento che sei. Chi? Ma dove sei? Ti sento basso. Chi sei? Paolo. Paolo, così hai detto. Ah, Pier Paolo, ho capito. Ma ti sento basso, forse sei lontano. Dove sei? E allora sei vicino a me. Sei quasi sotto casa. E come mai ti sento così basso? Cosa stai usando? Sei canari, così hai detto, sei canari. Ho capito. Cos'è? Che marca è? Cosa hai detto? Toccai sei canari. Boh, non lo so. Forse ce l'ho avuto anch'io anni fa. Non me lo ricordo, ma credo di sì. Ti chiami Pierpaolo. Ma quanti anni hai? Ho una voce da bambino. Ha 16 anni quasi. Quasi 16 anni. E come mai stai trasmettendo alla radio? Ah, te l'hanno regalato. E chi te l'ha regalato? Un tuo zio che lo usava tanti anni fa, così hai detto. Chi era tuo zio? Ah, sì, già l'ho conosciuto. Anche di persona lo conosco, sì. Regale. Ciao tu, aspetta, un ragazzo che è vicino a me qua, arriva bassissimo, non lo senti? No, negativo, no, non lo sento, comunque salutalo lo stesso se mi senti a me, vai. No, ho sentito lo zio che io sono entrato, adesso vado a mangiare, no, anche a mangiare al piccolo, ok, ci sentiamo dopo, se, ok, saluti a tutti. Ok, ciao a tutti, ciao, ci sentiamo. Pierpaolo, l'hai sentito Antonio? Già lo credo, è forte, già lo credo, per forza lo senti. Ma lui a te non ti sente, vabbè, sei qua vicino a me con questo baracchinetto, deve essere di bassissima potenza, perché mi arrivi basso a me, figurati, che sei vicino, molto vicino a me, qualche strada così, sei al 1, 2 isolati, non di più, 2, 3 isolati, non di più. Lui non ti sente, no, lui è nella zona Lima Delta. Ah vabbè, no, non te lo posso dire Lima Delta, tanto non lo capisci. Latte dolce ti volevo dire, Lima Delta significa latte dolce. No, non ti sentiva per niente, non ti sentiva, comunque ti ha salutato, lui ti sentiva, cioè tu a lui lo sentivi, ma tu, lui a te no. Ma da quando ce l'hai in questo baracchino? Dalla settimana scorsa, così mi avevi detto, dalla settimana scorsa, tu poco fa mi hai detto, ce l'ho dalla settimana scorsa al baracchino, così mi avevi detto, ho capito male io, boh. E vabbè, 8-10 giorni, ho capito, e vabbè dai. Va bene, no, ma io ti sento perché siamo molto ma molto vicini, se no non ti avrei potuto sentire. Pensa che non ti sento alla tenoccia, si vede che esce molto molto basso, quello è un baracchino che sta uscendo, se no con mezzo vatto, un vatto massimo, non di più. Chi? Come si chiama tuo fratello? Come hai detto? Tu ti chiami Pierpaolo, ma tuo fratello cosa mi hai detto? Come si chiama? Ah, sì, lo conosco. Lo conosco, ma quello è molto più grande di te. E quello più di 22, 23 anni avrà. 24, e appunto, sì, lo conosco. Quello già lo conosco, sì, no. L'ho visto anche da poco nel negozio qua vicino. Quando sono andato a fare la spesa l'ho visto qua vicino. Cosa ti ha detto? Che non, di non parlarci al baracchino, perché tanto sono una porcheria, così ti ha detto. E tu adesso, poco fa, cosa hai detto? Tuo fratello ti ha detto di non parlare al baracchino perché è una porcheria, così ho capito male io. E io, vabbè, stavo scherzando, forse stavo scherzando. Vabbè, dai. Vabbè, ma stai studiando, sì. Eh beh, certo, fai bene, studia che è il tuo momento. Vabbè, dai, forse mi hai detto che devi andare, che ti ha chiamato tua madre. Ci sentiamo allora. Ciao Pierpaolo, ci sentiamo qualche altro momento, magari, non so se coincide l'orario. Ciao. Stasera, non lo so se accendo stasera, adesso ero parecchi giorni che non accendevo, anche perché non c'ero a casa, per cui no, se ho di solito già accendo io, però adesso non so se stasera accendo, non so se esco, boh. Vabbè, d'accordo, dai. Comunque se capita, già ci sentiamo, non c'è problema. Ciao. Oh Giulio. E a tu, dimmi. Dico una cosa al volo, mi stavo dando a mangiare il bambino adesso. Lo sai che ha rinviato la patente? Ah, sono contento Antu, hai fatto benissimo. Ti può servire anche per lavorare. Cosa hai preso, la B? Sì, ho la B. La M e la B mi hanno messo una categoria. La M? Cosa vuol dire la M? La A, io ho la A e la B. Cioè praticamente la A è per portare la moto. Posso portare tutte le moto che voglio. La B per la macchina, anche qualche furgoncino che non sia troppo pesante, posso guidare con la B. 35 quintale, no, la M è per guidare ciclomotori, quella che ho io, il 50, capito? Parte da quella categoria. Adesso le fanno così le patenti, poi puoi guidare 125 11 kW, non sono in Italia però. Adesso viene così, la M è per guidare le motorette, quelle 50. Ok, dai, che sta protestando, vado a dargli da mangiare. Ok Giulio, dai, mi ha fatto piacere sentirti. Ok, a tu, vabbè. Ma l'altro giorno io ho ricevuto una telefonata tua e ti ho risposto, ma tu non mi hai risposto, mi hai sentito forse? Perché mi ha squillato, ho guardato, ah, questo è il numero di Antonio, c'è che risponda. E ho detto pronto, ho avuto 3 o 4 volte pronto, ma no, non ho ricevuto risposta. Boh, non lo so, non me l'ammento. Dai che vado a mangiare il bambino che è arrabbiato. Vabbè, Antonio, d'accordo, dai, ci sentiamo, vai da bambino. Ci sentiamo, ciao.